Sì, devo dire che l'ho fatto non con poteri divinatori, ma perché purtroppo ho letto la cronaca e insomma ho messo insieme un po' di fatti. L'ho letta nel corso della settimana scorsa, era un articolo che doveva uscire già sul Sole del lunedì ed è già uscito sul Sole del lunedì di stamattina, appunto. Poi lo abbiamo sul web riadattato ieri sera in base alle ultime notizie purtroppo della giornata. Questo per dire che è un tema questo che va tenuto d'occhio giorno per giorno e anche senza farsi distrarre dai grandi dibattiti, per esempio sulle grandi opere, farle o non farle. Qui l'unica vera grande opera è fare la manutenzione del territorio e delle opere che già ci sono, e poi al limite proveremo a farne di altre, insomma, altrimenti veramente questo paese ci si sgretola e ci si sgretola non solo perché piove, perché c'è maltempo, perché ci sono i cambiamenti climatici, perché vedete, al di là di quello che è successo ieri, il dato fondamentale è che alcune infrastrutture, per carenze che proprio ci sono soprattutto nella manutenzione, sono adesso a servizio limitato, anche per interventi della magistratura. Tenete conto che sull'autostrada adriatica fra il sud delle Marche e tutto l'Abruzzo ci sono una dozzina di viadotti sotto sequestro, le cui barriere sono sotto sequestro, su cui si viaggia a corsia unica, e sono sotto sequestro perché per una carenza di manutenzione da parte di Autostrade per l'Italia che ha portato a un incidente da 40 morti nel 2013. Dopo questo incidente ci si è accorti che le sostituzioni di queste, o meglio, le sostituzioni sono state sostituiti solo gli ancoraggi di queste barriere che sono molto diffuse in buona parte dell'Italia, e questo ancoraggio è stato bocciato dal Ministero delle Infrastrutture. Quindi adesso se non si pone rimedio a questa situazione, diciamo che ogni mese scatteranno ulteriori sequestri. Adesso pare che si stiano mettendo d'accordo il Ministero con Autostrade e questo dovrebbe convincere la magistratura a soprassedere, però insomma mettetevi anche voi nei panni di questi pubblici ministeri che sono di fronte al dubbio se tutelare la sicurezza oppure rischiare di bloccare il paese. Certo, questo è un grande cruccio. Hai ricordato appunto queste inchieste, ne abbiamo viste anche in questi giorni sui report edulcorati, appunto, esatto, proprio sulla manutenzione. Però dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova anche il pubblico aveva promesso un monitoraggio. Tu nei tuoi articoli parli di due soggetti: da un lato una banca dati che è Lineup, che doveva decollare ed è ancora ferma, e dall'altro l'ANSFISA, che è un'agenzia per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, e anche questa stenta a decollare. Assolutamente sì, sono due misure che erano assolutamente doverose, sono state poi prese col decreto Genova, quindi all'indomani della grande ondata emotiva del crollo del Ponte Morandi. Poi piano piano le cose, diciamo, la realtà, il tran tran quotidiano torna appunto sui suoi binari e quindi riaffiorano quelle resistenze sia da parte dei controllati sia da parte di quella fetta di controllori che magari tiene più ai propri interessi personali, compreso quello di non finire sotto inchiesta, piuttosto che a garantire quella sicurezza che per funzione pubblica dovrebbe appunto garantire. E quindi alla fine siamo qui a discutere ancora di due cose che non partono e che anzi vengono via via affievolite, indebolite. L'ultimo emendamento della riforma dei ministeri, per esempio, toglie poteri a questa super agenzia, e togliendoli toglie anche responsabilità a chi poi la gestirà in futuro. Come se ne esce da questa situazione? Se ne esce soltanto se ognuno fa veramente il proprio lavoro, quindi se i controllori si mettono veramente a controllare, se i controllati prendono impegni che vadano anche oltre il rispetto degli accordi che hanno con lo Stato, perché parliamoci chiaro, gli accordi con lo Stato, le convenzioni fra i gestori autostradali e lo Stato sono frutto di una stagione in cui lo Stato era particolarmente permissivo e diciamo è tardi per accertare per quali motivi ciò accadde. E poi anche noi cittadini non dobbiamo farci abbagliare da questi dibattiti che vengono messi nella nostra agenda, per esempio appunto sulle grandi opere e tante altre cose, che distraggono da questa questione che sta venendo al pettine, cioè qui praticamente rischiamo di non doverci muovere, perché teniamo conto che non è solo una questione delle autostrade, ci sono anche problemi che riguardano le ferrovie, ci sono stati incidenti o incidenti sfiorati, quindi alla fine diventa tutto molto difficoltoso. Speriamo di non dovercene mai accorgere dopo un incidente. Vediamo di farlo anche prima, insomma.